Bentornati. In perfetto unisono io e Gab abbiamo aperto questa col nuovo orario. Nuovo orario. Venti alle 8, no. Vabbè, in realtà sarebbe le 7 e mezzo, ma come al solito. Ma va bene così. Nuova puntata di Testa Croce Show che si prospetta piena di sorprese. No, Gab è dubbioso, non è? Di sorprese anche per noi. Esatto, penso. Sì, ma quelle ci sono sempre. Non si sa mai cosa succede in una puntata di Testa Croce Show. Comunque, se volete segnalarci problemi tecnici, segnalateci a testocroceshow@gmail.com. Oppure scriveteci i vostri improperi in diretta sullo Skype. Testa Croce Show è l'account da aggiungere. E vabbè, i blog a testacrocesshow.blogspot.com con i podcast fino alla puntata scorsa. Ecco, mi raccomando, partecipate, fateci sapere qualsiasi cosa, saluti, no? Considerazioni, riflessioni, sì, barzellette, insomma qualsiasi cosa. Maledizioni. Esatto, siate con noi. Bene, cosa ci ha portato questa settimana? Un sacco di cose. Sì, per esempio? A me non ha portato niente. Ma per esempio il compleanno del nostro caro amato Papa Ratzinger. Ah, non sapevo. Il 16 aprile. Ah, beh, da poco proprio. Da poco. Auguri, auguri. Quanto ne fa? 85? 85, esatto. Beh, ti vedo informato invece. Sì, sì, perché c'è un toto papa, sai, sai com'è. Mia voce scompare, perché ho detto... Ecco, questo è Benedetto XVI, l'influenza, sentite, sì, che si espande. Ci anche sono? Oltre... No, non c'è, però direi che a questo punto, visto che abbiamo parlato di maledizioni, andiamo subito con una notiziola. Sì, era il compleanno del Papa, ma soprattutto c'è questa interessante notizia che riguarda proprio le maledizioni, ovvero sia, da Religion News, il giudice distrettuale Martin Hoffman lo scorso 2 aprile ha dichiarato non valide le accuse di Mikey Weinstein contro un ex cappellano della Marina che affermavano che egli usasse maledizioni come quelle contenute nel Salmo 109 per incitare gli altri a fare del male al fondatore ebreo agnostico della Military Religious Freedom Foundation, la fondazione per la libertà religiosa militare. Hoffman ha detto che non ci sono prove che le preghiere di Gordon Klingenschmitt fossero connesse alle minacce fatte a Weinstein e famiglia e ai danni alla sua proprietà. Secondo le accuse, Klingenschmitt aveva postato una preghiera sul suo sito augurandosi la caduta del MRRF, cioè il Military Religious Freedom Foundation, che avevo detto prima, quando ero via, tagliato, sì, esatto. dalla maledizione di Ratzinger. Beh, andiamo avanti. L'ex cappellano ha commentato: lodo il Signore per la libertà religiosa, già che il giudice ha dichiarato che si può lanciare preghiere imprecatorie e citare il Salmo 109. Secondo il Dallas Morning News, il Salmo 109 augura la morte del nemico e maledizioni sulla sua vedova e i suoi figli. Cioè, secondo il Dallas Morning News, nel senso che io non mi sono andato a leggere il Salmo, vediamo se ci si può fidare, se qualcuno lo sa ce lo scriva di cosa parla il Salmo 109. Possiamo anche, certo, possiamo anche informarcelo durante il primo stacco musicale, no? Sì, però, esattamente. Però intanto poi terminiamo la cosa su Ratzinger. No, la termineremo avanti, okay, perché insomma sono state varie affermazioni, sì, sì, no, da parte del nostro caro Papa, e quindi ce ne andremo a parlare dopo. Per il compleanno. Per il compleanno, sì, sì, assolutamente. Esatto. Tutti i preti in piedi sulle sedie, bellissimo. Bravo. È stato bellissimo. Cosa facciamo? Andiamo subito con l'almanacco del 19 aprile oppure facciamo prima ma andiamo con l'almanacco. Andiamo con l'almanacco. Poi... Allora c'è la musica dell'almanacco, lo diciamo, esatto. È di Guillaume de Machaut. Allora, oggi 19 aprile si celebrano Santa Emma di Gurk, San Geroldo, San Mappalico o Mappalico, San Varnerio di Oberwesel, Sant'Elfege di Canterbury e Sant'Espedito di Melitene. Ecco, ma io realizzo adesso che molti di questi nomi in realtà sono tradotti dal straniero, quella vecchia usanza italiana di adattare. Ecco perché sono così strani. Alcuni sì, esatto. Comunque, ricordiamo la scomparsa nel 1645 di Will Smith, ma non l'attore. No, il compositore William Smith. E poi nel 1882 di Charles Robert Darwin, che forse ricorderete, cos'era, un chitarrista, no? Non era un illustratore per bambini. Un naturalista forse. Ah, sì, ecco, sì, sì, forse. Ah, origine delle specie, ecco, già. Bravo. Moriva a 73 anni. E poi nel 1906 Pierre Curie, il fisico e chimico francese, premio Nobel fra le altre cose. Poi un Bach, finalmente ritorna la celebrazione di un Bach, Adolf Bach, filologista e sociologista tedesco. Ma non un musicista, no, quindi no, neanche lui, no. Poi ricordiamo Robert Clayton, e Robert Paul Haynes, due musicisti dei Jody Grind, morti entrambi in un incidente stradale all'età di 26 anni. E J.G. Ballard, romanziere, novellista britannico, grandissimo tra l'altro, sì. E poi sarebbe stato il compleanno di Christoph Bach invece, musicista, nonno di Johann Sebastian. Se non che è morto un sacco di tempo fa, però è il nonno di Johann Sebastian. E poi è il compleanno del pittore Fernando Botero, sempre dell'artista Sergio D'Angelo, dell'attore Tim Curry, sì, dell'attrice Nicoletta Braschi, la giornalista Lily Gruber e Marisa Laurito, la celebre showgirl. E aggiungo anche Hayden Christensen, che è Anakin Skywalker, quello brutto, però, cioè quello nuovo, quello giovane, insomma, non il vero Darth Vader. E poi Kate Hudson, anche lei attrice, e Maria Sharapova, tennista. E bene, tra l'altro, tra le scomparse voglio almeno ricordare, anche se non è il giorno il 19 aprile, ma il 14 aprile di 2 anni fa, ci lasciava Peter Steele, voce lì, frontman dei Type Zero Negative, grandissima band che tantissime altre band, tantissimi amici del mondo della musica, anche che non lo conoscevano, l'hanno poi celebrato con cover, brani tributo, eccetera, eccetera. Bene, e comunque appunto, a proposito di celebrazioni, vi ho detto della scomparsa nell'incidente automobilistico di due membri dei Jody Grind, un gruppo prog degli anni 60, inizio 70, e quindi vi ricordiamo con questo pezzo dall'album One Step On del 1969. E questo brano si intitola Little Message, e ora ce lo andiamo ad ascoltare pian pianino. Piccolo messaggio per voi. Sì. And listen to the sound. May not be the sound of music everybody plays. E eccoci in onda. Allora, nonostante tutto, parlavamo di Ratzinger poco prima dell'interruzione tecnica, e quindi torniamo a dire qualcosina. Esatto, allora, compleanno di Ratzinger il 16 aprile, 85 anni ben spesi, aprile, vogliamo dire. Sì. E ADN Kronos ha diffuso anzitutto che Ratzinger vuole solo una festa in famiglia, ha voluto solo una festa in famiglia. Quale? Per i suoi 85 anni, la sua famiglia. Ah. È stato lo stesso pontefice infatti a raccomandarsi: per favore, non voglio grandi celebrazioni. Parola di Don Georg Gainswein, il segretario particolare di Benedetto XVI, che agente, è la notizia che così io non c'entro, che agente ha detto: non ci saranno festeggiamenti solenni in Vaticano per il compleanno del Papa, piuttosto una festa in famiglia come lui stesso ha chiesto. E sempre il 15 aprile, dopo la recita del Regina Celi in piazza San Pietro, Benedetto XVI si rivolse così ai pellegrini nel suo saluto in lingua francese. Giovedì prossimo, quindi oggi, in occasione del 7° anniversario della mia elezione alla sede di Pietro, vi chiedo di pregare per me, perché il Signore mi dia la forza di compiere la missione che mi ha affidato. E a questo proposito vi invito a scriverci i vostri auguri a Ratzinger. Cosa augurate al nostro caro Papa? Scrivetecelo a testocroceshow@gmail.com o su testocroceshow tramite Skype. Sullo Skype fateci sapere cosa augurate ai prossimi 85 anni di pontificato di Ratzinger. E nel giorno del suo compleanno, dopo il fine settimana trascorso in Vaticano con il fratello Georg, Papa Ratzinger ha ricevuto una nutrita delegazione arrivata dalla sua Baviera, la sua terra natia, guidata dal presidente del Land tedesco Horst Seehofer e dal suo successore come vescovo di Monaco, il cardinale Reinhard Marx. Bel cognome per sì, tra l'altro. A inizio della mattinata Benedetto XVI ha fatto una pensosa e sentita riflessione sui segni che hanno guidato la sua vita, prima di volgere lo sguardo a quello che ancora gli rimane davanti. Una riflessione che non nasconde la stanchezza, ma dove in ultima analisi domina la speranza della fede. Mi trovo di fronte all'ultima tratta del cammino della mia vita e non so quello che mi aspetta. Bravo. Ma so che la luce di Dio c'è, che è risorto, che la sua luce è più forte di ogni oscurità, che la bontà di Dio è più forte di tutto il male di questo mondo, e questo aiuta ad andare avanti con sicurezza, ci aiuta ad andare avanti. E in questa ora ringrazio di cuore tutti coloro che continuamente mi fanno percepire il sì di Dio attraverso la loro fede. Ecco, questo era era proprio lui, Ratzinger. Il 16 aprile uno dei segni che lui appunto ha riscontrato è il 16 aprile anche il giorno della nascita di Santa Bernadette Soubirous, la veggente di Lourdes. In lei Papa Ratzinger vede un segno di come dovremmo essere, del fatto che con tutto il sapere e il fare, che pure sono necessari, non dobbiamo perdere il cuore semplice, lo sguardo semplice del cuore, capace di vedere l'essenziale. Ecco, a proposito di essenziale, un paio di citazioni di Benedetto XVI, giusto per capire cosa ci sta lasciando questo pontificato. Ad esempio: è venuto Gesù per dirci che ci vuole tutti in paradiso e che l'inferno, del quale poco si parla in questo nostro tempo, esiste ed è eterno per quanti chiudono il cuore al suo amore. Ah sì, questa, eh? Sì, è un'affermazione del 25 marzo 2007. Oppure da una celebre lettera inviata dall'allora cardinale a Gabriele Cubi, 7 marzo 2003: è un bene che lei faccia chiarezza sulle questioni di Harry Potter, già che queste sono seduzioni sottili che hanno un effetto impercettibile ed appunto per questo profondo, e logorano il cristianesimo nell'anima prima che questo possa fermarsi perfettamente. Oppure ancora dalla lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali: c'è il pericolo che una legislazione che trasformi l'omosessualità in una fonte di diritto possa di fatto incoraggiare le persone con tendenze omosessuali a dichiarare la loro omosessualità o addirittura a cercare dei partner allo scopo di sfruttare le disposizioni della legge. Però è vero che ci ha anche detto, in un Commentary on the Documents of Vatican II nel 1969, al di sopra del Papa come espressione della pretesa vincolante dell'autorità ecclesiastica resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell'autorità ecclesiastica. Ecco, quindi noi ce ne sbattiamo sostanzialmente di quello che questo l'ha detto lui? Ha detto sì, l'ha scritto È relativismo, no? È relativismo, in sostanza. Il relativismo che abbiamo conosciuto. Esatto, e contro cui lui stesso spesso ha tuonato. Beh, a proposito di relativismo, vi posso leggere una notizia interessante da Religion News. Andrew Bowen siede nella posizione del loto nella sua poltrona, indicando una serie di collane da preghiera musulmane nella sua mano, parlando del 2011, anno della sua conversione. Ma non è musulmano. In realtà il 29enne non si dichiara membro di nessuna delle 12 fedi che ha praticato, una al mese lo scorso anno. Wow! Non hindu, gennaio; non Baha'i, febbraio; non zoroastriano, marzo; non ebreo, aprile; non buddista, maggio; non agnostico, giugno; non mormone, luglio; non musulmano, agosto; non sikh, settembre; non Wiccan, ottobre; non jainista, novembre; e non cattolico, a dicembre. Fantastico! Eh sì, non cercava la fede in Dio, essendo di matrice cristiana integralista per sua stessa ammissione, ma fede nell'umanità. Le prime due settimane di ogni mese leggeva e imparava i libri sacri, i testi sacri, e nel resto del mese praticava rituali, visitava congregazioni, seguito da mentori per ogni diversa fede. Adesso, guarda caso, sta scrivendo un libro su questo Project Conversion, come l'ha chiamato lui, progetto conversione, e dice di questa esperienza: la cosa più importante che ho imparato nel buddismo è stato come lavare i piatti, non c'è nulla a parte il piatto, mi ha insegnato a stare tranquillo. Coi mormoni ho preso come chiedere scusa l'umiltà di servire, eccetera eccetera. Poi dice altre cose sulle altre religioni e poi conclude: così a lungo ho sofferto per il mio ego, perciò adesso voglio rendere le fedi altrui più belle per i fedeli stessi. Non penso a Dio adesso, ma solo a partecipare. Ma è meraviglioso. Io propongo anche facciamolo anche noi, anche tu Fede qui, lo ringraziamo, e alla console facciamolo anche noi, facciamo cioè, però una al giorno per un mese, la vedo un po' più dura, sì. E facciamo però tutte quelle che abbiamo, di cui abbiamo parlato in questi in queste puntate. Non ci sto, è un po' una corsa, una al giorno, però ci sto. Fatelo anche voi, amici ascoltatori, e fateci sapere qual è il risultato, insomma, se vi convertite a una di queste, sì, o se quantomeno vi aprite un po' la mente. Certo, comunque. Certo. Comunque, visto che stavamo parlando anche di vecchi poco fa, non sei gentile. Comunque, da Reuters di Chicago, questa notizia interessante: la fede in Dio è maggiore negli anziani e incrementa con l'età, forse perché la morte si avvicina, ha detto uno studio dell'University of Chicago. Sintetizzando i sondaggi del 91, 98 e 2008 in 30 stati dal Cile al Giappone, il National Opinion Research Center dell'università ha scoperto che in media 43% delle persone con età superiore a 68 anni si dicono certi che Dio esista. Al contrario, soltanto il circa il 23% di persone dai 27 in giù sono credenti. Vabbè, non mi stupisce troppo, però. Beh, no, direi di no. Però non pensavo ci fosse uno stacco così netto. Chissà se diminuirà con gli anni, se è un effetto ancora di... Viviamo in tempi bui. Questa ma... gioventù che ha perso i valori. Ma allora andiamoci a rallegrare con un po' di musica. Sì. Non so se ci rallegriamo. Ci rallegriamo, ci rallegriamo, perché è un brano che ho scelto apposta per fare gli auguri a tutti coloro che fanno gli auguri, che fanno, compiono gli anni oggi, ma soprattutto al nostro caro amato Papa Ratzinger, uno in più degli 883. Happy birthday to you, happy birthday to me. Non cambierà un granché, tanto sei sempre tu, sempre scemo così. L'altro che un simbolo, perché più vado avanti più mi sembra che Dio mi possa fidare di me. Non tantissimo, però di più. Auguri Joseph. Auguri caro nostro amato Papa Ratzinger. Nonostante tu ci voglia male, noi ti vogliamo tanto bene. Tantissimo. Bene, allora ti dedichiamo questo Salmo 109, giusto? Giusto, perché c'è stata una rivelazione, penso la prima nella storia dell'umanità. Cioè mi è stato rivelato il Salmo 109, di cui abbiamo parlato prima, che recita così: oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora come rugiada io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Il Signore è alla tua destra, egli abbatterà i re nel giorno della sua ira, sarà giudice fra le genti, ammucchierà cadaveri, abbatterà teste su vasta terra. Lungo il cammino si disseta il torrente, beh, dopo tanta strage, perciò solleva alta la testa. Stavamo parlando di Sauron, il... Sì, esatto. Bravo. Proprio lui. Comunque, sì, beh, insomma, bello tosto. Bello tosto, bello tosto. Va bene, ma allora passiamo alla novità assoluta novità di oggi. Novità assoluta. Perché no? Perché no? Intanto, beh, vi preannuncio che la novità assoluta di oggi si tratta di Branamiti. Però bisogna fare qualche piccolo cenno prima per spiegare cosa sono. Intanto rientrano nelle chiese pentecostali, che sono chiese evangeliche che riconoscono come primario strumento di fede gli insegnamenti della Bibbia. E ne escludono alcuni, compreso il Nuovo Testamento. E inoltre, vabbè, sostengono il battesimo nello spirito, che si fa nello Spirito Santo, che lo Spirito Santo dona delle capacità soprannaturali, dette carismi, al credente, che ogni credente deve predicare il Vangelo a ogni uomo, e il secondo avvento di Cristo, fra le altre cose. Dunque, questa... Poi bisogna dire qualcosina sul successo che avevano i guaritori e legati alla religione, molto spesso nel fine 800, primi del 900, una data nel quale sono nate la maggior parte delle confessioni pentecostali. E appunto in questo periodo spopolavano questi guaritori indipendenti, fra cui due giganti sono Oral Roberts e William Marion Branham, che intuite dal nome, probabilmente è quello di cui parleremo tra poco, è lui. E fra l'altro fecero schiere di fedeli, conquistarono un sacco di milioni, specialmente di americani, e fecero anche crociate all'estero, si spostarono per conquistare fedeli un po' in tutto il mondo. Tanti furono accusati di provocare fenomeni carismatici a comando, di inscenare false guarigioni. Comunque, insomma, ebbero un grande successo, che è un successo che continua comunque anche tutt'oggi, diciamo, fino a anche ai giorni nostri, specialmente avvalendosi del fenomeno radio e televisivo, in cui questi santoni appunto avevano un grosso aiuto per raccogliere più consensi, ecco. E, ma ora appunto facciamo un piccolo passo indietro, torniamo a parlare di Branham. Dunque, William Branham nacque il 6 aprile 1909 a Birksville, nel Kentucky, Stati Uniti, da una famiglia non credente e poverissima. Suo padre era boscaiolo, sua madre mezzo indiana, sì, per metà indiana, ecco. Tutta la sua vita fu immersa nel soprannaturale. Sua madre, che lo ebbe a 15 anni fra l'altro, era una visionaria, e lui stesso ebbe visioni, secondo le sue stesse parole, fino all'età di 2 anni. Ne ebbe più di 100.000, cioè qualcosa come 5-6 visioni al giorno per 50 anni. A 7 anni ebbe una visione in cui un angelo gli parlò. Da allora, dice, avevo sempre la sensazione che qualcuno stesse accanto a me cercando di parlarmi, soprattutto quando ero solo. Si convertì verso i 20 anni, entrò nel ministero e per qualche tempo si prese cura di una comunità battista. Poi, nella cornice di un evento che lo lasciò scosso e abbattuto, ebbe una visione che mutò il corso del suo ministero. Ma lasciamo parlare lui stesso. Era il 7 maggio 1946. Mentre camminavo intorno alla casa e passavo sotto un acero, mi parve che la cima dell'albero venisse violentemente scossa e ne scese un gran vento. I miei accorsero. Spaventata, mia moglie domandò che cosa era successo. Provando a riprendere possesso di me stesso, mi sedetti in terra e dissi loro che era venuto il momento della crisi. Trascorsi il pomeriggio in un luogo nascosto. Lessi la mia Bibbia e pregai intensamente. Mi pareva che l'anima mia si separasse dal corpo. Verso le 11 cessai di pregare e ad un tratto scorsi una luce tremolante nella stanza. Poi, venendo verso di me, vidi nella luce 2 piedi d'uomo. Poi vidi l'uomo stesso. Accorgendosi del mio spavento, cominciò a parlare. Quell'uomo, annunciandosi come proveniente da parte di Dio, gli promise a Branham, giusto? Sì, sì. Il dono di guarigione, e gli annunciò che nessuna malattia, neppure il cancro, avrebbe resistito alle sue preghiere. E continua Branham, mi insegnò quindi come scoprire le malattie dalle vibrazioni delle mani. Ecco, da allora la popolarità di Branham si estese a tutto il mondo. Le sue campagne furono seguite da migliaia e migliaia di persone. Centinaia di guarigioni avvenivano nel corso delle riunioni. Durante il giorno Branham vedeva i miracoli che si sarebbero verificati la sera e discerneva anche la vita e il passato dei malati. Gli capitava di descrivere certe persone sedute nella sala, rivelando la loro malattia e la loro vita e annunziando che sarebbero stati guariti. Diverse volte, in presenza di malati desiderosi di essere guariti, chiedeva: «Avete sempre la stessa fiducia in me?» Branham è idolatrato dai suoi seguaci, i quali dicono che è l'Elia che doveva venire, il Giovanni Battista che deve annunciare la seconda venuta di Gesù, il profeta mandato da Dio a questa generazione. Ma è opportuno chiedersi innanzitutto da dove provenivano i suoi doni, da un talento naturale, è possibile, ma ciò non spiega i suoi autentici miracoli, da Dio? Per rispondere di sì, bisognerebbe ammettere che Dio abbia completamente cambiato la sua rivelazione, che la Bibbia non sia più la nostra norma di guida e che tutte le fantasie siano possibili nel nome della fede. Da una certa debolezza è possibile, lo stile inconsueto delle sue predicazioni e certi suoi comportamenti potrebbero farcelo pensare, o provengono da capacità medianiche? È proprio questa la sua spiegazione. Egli era un potente medium. Ecco, voglio precisare che la fonte che ho trovato appunto ritiene che il suo potere derivasse dalle sue capacità medianiche e non dall'infusione divina, sostanzialmente. E bene, finisco questo pezzetto. Branham possedeva capacità medianiche eccezionali già prima della sua conversione. La sua conversione probabilmente fu autentica, ma non lo liberò mai da questa capacità, e disgraziatamente quelli che lo attorniavano considerarono tali sue capacità come carismi di Dio. Questo non solo non aiutò lui a liberarsi, ma irretì molti altri nella stessa seduzione. Leggendo la storia di quest'uomo sembra di udire le parole di Gesù: sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Mi sembra di capire che è una fonte critica, sì, questa critica. Sì, sì. Branham era un falso profeta, dice, poiché accanto ai suoi prodigiosi miracoli proponeva un altro evangelo, e questo è il dramma. E ora vedremo qual è il suo evangelo, però direi di fare un piccolo stacco musicale prima. Bene, allora ci andiamo ad ascoltare un pezzo di una violinista statunitense molto giovane. L'album è Ophiliac del 2006 e questa è Misery Loves Company di Emily Autumn. È una cosa un po' particolare, sì. Company loves more. More, that's everybody else. Rieccoci. Bentornati in diretta, stiamo parlando di branamismo. Sì, e intanto salutiamo Paola che ci segue, Jacopo. Ciao che Paola, ci dice che ciao siamo Jacopo. Santissimi. Tra l'altro vi annunciamo che Jacopo, il nostro ascoltatore, sarà il nostro ospite nella prossima puntata. Eh già, eh già. E non svegliamo perché. Non svegliamo perché. Comunque ricordiamo a Jacopo, che si è sintonizzatore, e tutti gli altri che non lo sapessero, che noi andremo in onda per le ultime puntate dalle 7:30 alle 8:30 anziché dalle 7 alle 8, quindi non siamo in ritardo bestiale come sempre, ma siamo in ritardo perché abbiamo cominciato 10 minuti sì, dopo, no, però per ora siamo perfettamente nei tempi ancora. Bene, andiamo avanti con questo branamismo. Dunque, allora vediamo un po' di dottrina. Ad esempio, cosa dice della Bibbia W. Branham? Allora dice questo: chiunque contraddice o falsifica una verità della Bibbia ne trae un rapporto o un'interpretazione particolare, si separa da Dio, perde il senso dell'equilibrio e dell'armonia delle scritture. Questo è dal libretto senza titolo edito da Frank. Ok, ma come è nello stile di Branham, la contraddizione è di prammatica. Infatti in un altro scritto afferma: si tratta invece di una grande fame della parola di Dio, l'alimento di cui dovete far provvigione sono i nostri magnetofoni sui quali è riportata e trasmessa di nuovo la parola. Ancora Branham, citato da Frank: in la parola di Dio dimora in eterno. I messaggi del profeta sarebbero dunque un valido sostituto della Bibbia, come molte altre volte egli afferma su libri o messaggi registrati. E aggiungo, come tantissime altre confessioni, anche che quelle che insomma affermano appunto che il messaggio vale ancora quello vecchio, ma quello nuovo comunque è sempre un po' meglio, ecco, poi è così. Che questo, e questo richiama anche la nostra seconda domanda, che vi ricorderemo a breve. Certo. E poi dunque, sullo Spirito Santo, secondo l'insegnamento di Branham, il credente realizza una nuova nascita solo nel momento in cui riceve il battesimo nello Spirito Santo, che non è esattamente il battesimo che ricevono i cattolici, è diverso ovviamente. La Trinità, poi, la dottrina della Trinità viene attaccata violentemente da Branham e dai suoi seguaci, ed essi chiamano questa la Trinità. Colui che troverà questa parola nella Bibbia venga a mostrarmelo. Provate a trovare il termine Trinità nella Bibbia, non si trova, non esiste. Questo è Branham dalla Rivelazione di Gesù Cristo. E bravo Branham. Secondo questa setta, le tre persone della Trinità non sono che tre diverse manifestazioni, tre modi di essere un'unica persona, che è Gesù Cristo. Cristo è il Padre, è il Figlio e lo Spirito Santo. Da qui il nome dato ai seguaci di Branham, Gesù solo. Si chiamano i seguaci di Gesù solo. E fra l'altro, in un esempio lui faceva: io sono padre ad esempio di mia figlia, sono marito di mia moglie e sono nonno di mia nipote, ma sono sempre io. Vabbè. Ma convincente? È un po' dubbioso, però va bene. Vabbè. Poi sul battesimo: il battesimo nel solo nome di Gesù. Secondo Branham, l'unico battesimo valido è quello nel nome di Gesù. Infatti molti credenti evangelici che hanno aderito alla setta di Gesù solo hanno dovuto rifare il battesimo in acqua, secondo la formula di Branham. Questo uso, a prima vista stravagante, deriva direttamente da una perniciosa eresia che abbiamo visto sulla natura di Gesù e sulla Trinità. Vabbè, qui è un commento un po' duro della fonte, però. Si appoggia su alcuni versetti del Libro degli Atti, nei quali si parla di battesimo nel nome del Signor Gesù. E poi sull'inferno invece che dice Branham? Allora, al pari di altre sette, Branham nega l'esistenza della perdizione eterna. Se lo sente Ratzinger, vedi. Il suo insegnamento si snoda lungo tre principi. Primo, vi è differenza di significato tra eterno e sempiterno. Scusa, ma non vedo. Vabbè, per la qualcosa le pene non sono sempiterne. Secondo, l'eternità è solo per i credenti, mentre il diavolo e i suoi angeli periranno dopo lunghi tormenti. Terzo, con loro periranno le anime dei perduti. Quindi Branham crede nell'annientamento dei perduti, come i testimoni di Geova. Ecco come si esprime al riguardo: queste anime vi saranno tormentate a cagione delle loro opere per 10 milioni di anni. Non so cosa in sempiterno possa significare agli occhi di Dio. Può essere un breve tempo, 1 milione di anni o 10 milioni di anni, ma il momento verrà in cui queste anime non saranno più. Quindi, questo è dalla Rivelazione di Gesù Cristo. Scopriamo che Dio non conosce il significato di sempiterno. Sempiterno. Ma ora come ora anch'io dubito di saperlo, sì, sinceramente. Va bene, allora diamo due notizie, due cifre su questa religione e poi chiudiamo. Allora, i messaggi e gli scritti di Branham sono divulgati dal tabernacolo di Branham di Jeffersonville, guidato dal figlio Billy Paul e da altre chiese ad esso collegato, che si rifanno agli insegnamenti di Branham. La casa editrice che si occupa della produzione e della diffusione nel mondo degli scritti e dei messaggi audio di Branham si chiama Voice of God Recordings, registrazioni della voce di Dio. fondata nell'81 dal figlio Joseph Branham, la cui sede è Jeffersonville. I libri e le audiocassette di Branham sono tradotti in oltre 40 lingue. Nel mondo i suoi seguaci si aggirerebbero intorno a 100.000. In America i gruppi che aderiscono agli insegnamenti di Branham si presentano sotto il nome di Bible Believers, credenti della Bibbia. Tra i seguaci di Branham si distinguono due correnti: quella radicale, che considera Branham il messaggero di Apocalisse 22, che non è un film, è proprio il versetto dell'Apocalisse, è un personaggio quasi divino, e quella liberale, che lo considera invece un personaggio quasi divino, ma semplicemente un profeta. Anche in Italia esistono seguaci di Branham che diffondono il suo messaggio, fra cui alcune comunità in Campania, Calabria e in Sicilia. Nel sud, quindi? Sì, nel sud. E ci sono anche, vari siti internet che però non vi cito, ma non perché non voglio diffondere, per carità, magari li metto sul blog, ma che sono proprio siti personali dei fedeli, non c'è un sito ufficiale italiano, quindi... Sì, perché tra l'altro, se non mi sbaglio, loro non vogliono apparire come una religione, no? Con una denominazione particolare, ma più come seguaci, esatto, appunto, di questa figura. Quasi tutti i pentecostali non vogliono che si aderisca a un nuovo culto, ma che si faccia il proprio nella chiesa di appartenenza, ecco. Benissimo, allora chiudiamo qui la novità assoluta. Chiudiamo qui, sì. Ci sentiamo un po' di musica. Sì, ci sentiamo un brano. Questo brano si chiama New Moon. No, non mi deludere così. No. Non sarà mica legato all'orrido film di Lupi Mannari. Assolutamente no. Questi sono gli Swallow the Sun. È un grande brano, New Moon. Retro, Satana, cos'è questo schifo, questa musica che avvicina al demonio? Guarda, hai proprio ragione. Ho sentito anche proprio la voce del demonio. È decisamente musica che avvicina a Satana, e tra l'altro ho scoperto, lo dico velocissimamente, che anche Padre Amort tiene un corso di esorcismo insieme ad altri esperti del campo. Pensavo un corso di canto black metal. Magari, ci andrei subito, no. Corso di esorcismo già da 7 anni ed è in corso proprio in questa settimana a Roma e a Bologna. E si paga? €250. Boia. Modica la cifra, dai, considerando che la chiesa in camera vari miliardi di euro all'anno. No, considerato che è Padre Amort, poi. No, non solo lui, ci sono vari docenti. Tre Charlie's Angels. Anche in quel caso ci andrei subito. Va bene. È arrivato il momento della domandona esistenziale. Sì, ricordiamo brevemente il nostro concorso esistenziale. Appunto, ho avuto già altre due domande, che sono la prima: qual è il vostro senso della vita? E poi se la rivelazione deve essere continuamente aggiornata oppure se deve avere un valore assoluto. Rispondeteci a testacrocesshow@gmail.com o testacrocesshow, ma anche ormai manca poco, quindi fatelo per email, meglio. Per aggiudicarvi il premio esistenziale che riveleremo nelle prossime puntate. Certamente. Dunque, avevo pensato di domandarvi se Dio esiste e qual è la vostra idea di Dio, però insomma era un po' banale come domanda, no? un po' da tutti i giorni. Sì. Però naturalmente se volete faccelo sapere ci interessa molto. Cosa ne pensate? Invece ho pensato a qualcosa di più alternativo, un koan. Vi voglio proporre un koan. Allora, cosa sono i koan? Sono delle domande, racconti, dei motti, anche, sì, esatto, domande, mi racconti che servono nello zen a scuotere la coscienza, sì, a far tacere la ragione, sì, la mente, esatto, razionale. I maestri li propongono agli allievi e gli allievi devono, diciamo, meditarci sopra finché per non far utilizzare la mente, poi esatto. Le principali raccolte di koan nella storia dello zen sono la raccolta della roccia blu e la barriera senza porta, tutti intorno a 1000 anni fa circa, quel periodo lì, quello che è nelle nostre opere al Medioevo. Ad esempio, un koan celebre è un monaco arrivò da Joshu e gli chiese se un cane avesse una natura buddhica. Joshu ribatté cioè è un suono che in la loro lingua vuol dire sia no, nulla, sia l'abbaiare di un cane, quindi sì. Ecco, c'è questa ambiguità. Sì, sì, è bellissimo questo, lo conoscevo. È un celebre, un altro celebre con è perché Bodhidharma partì per l'Oriente, perché Bodhidharma praticamente è considerato l'iniziatore dello Zen, dall'India andò in Cina per diffondere lo Zen, che però dice che non è vero nulla, che non esiste nulla, quindi, sì, quindi sì, è un po' paradossale. Vorrei però introdurvelo con un celebre aneddoto che si legge nello Zhuangzi, non ne ho idea se sia la pronuncia cinese giusta, cioè un libro filosofico di questa tradizione. Allora, in questo, ed è del IV secolo avanti Cristo, allora io faccio Zhuangzi e tu fai Huizhu. Allora, va benissimo. Zhuangzi e Huizhu passeggiavano lungo l'alzaia del fiume Hao quando Zhuangzi disse: vedi come i pesciolini guizzano, riemergono, si tuffano al loro piacimento, questo è ciò che essi amano fare. Tu non sei un pesce, come puoi sapere quello che piace ai pesci? Tu non sei me, come puoi dunque sapere che io non so quello che piace ai pesci? Io non sono te, perciò non v'è dubbio che io non so quello che tu sai. D'altra parte, tu sicuramente non sei un pesce, questo conferma di nuovo che tu non sai quello che può piacere a un pesce. Torniamo al quesito iniziale. Tu mi hai domandato come conosco quello che piace a un pesce, sicché giù tu già sapevi che io lo sapevo quando hai posto la domanda. Lo so stando qui presso il fiume Hao. Ecco. Questi Zhuangzi e Huizhu sono rimasti nella storia per essere stati dei rivali filosofici, cioè si ammiravano ma erano spesso, sì, in disaccordo. Allora, il koan che voglio proporvi, un po' come noi, esatto. il koan che voglio proporvi è questo: un uomo tiene un'oca dentro una bottiglia, l'oca cresce e cresce fino a non passare più dal collo della bottiglia. Come si fa a far uscire l'oca dalla bottiglia senza rompere la bottiglia e senza uccidere l'oca? Ecco, quindi è un puzzle, cioè un enigma. Sì, è un'avventura grafica. e vi darò anche, quando faremo la premiazione, vi darò anche la risposta più famosa di un maestro zen. Ma intanto spediteci e fateci avere le vostre. Non vedo l'ora di cimentarmi anch'io con questo. Sì, io ho paura di quello che risponderà. Va bene. Rispondeteci. Sì. Allora, ci ascoltiamo un brevissimo passo dell'ultimo brano musicale della playlist di oggi. Torniamo e poi torniamo per saluti, esatto, se qualche segnalazione. Il brano è Veridis Quo dei Daft Punk. Dopo un breve assaggio di veri di squadre da Andiamo Punk, velocissimi con ci stanno facendo dei segnali dalla regia. Giusto. E dunque, vi voglio segnalare che, appunto, per i nostri ascoltatori dell'ultima ora non sanno che noi abbiamo spesso citato gli eventi, sì, che avvenivano in questo centro congressi dell'hotel Le Conchiglie a, sì, Riccione. Era un appuntamento, sì, quasi fisso. Perché la gente va anche per queste cose a Riccione, non solo per strabiliante, a spendere i suoi soldi anche in questo modo. Ecco, però, appunto, mi è arrivata nella cassetta della posta la segnalazione di questo convegno Nuova Coscienza e Guarigione, 20ª edizione, che si svolgerà tra il 7 maggio 2012 proprio a questo centro congressi Le Conchiglie. È un po' come farmi sapere che sanno dove abito, cioè ho questa impressione. Allora, la quota di iscrizione è €80 per giovani e per chi ha partecipato a uno dei precedenti convegni €75, e l'iscrizione, ma giovani non è quantificato, di età inferiore ai 25 anni. Okay. E dunque questo centro congressi è in Viale D'Annunzio 227 a Riccione, e ci saranno vari relatori. Si parlerà, ad esempio, con il medium Luigi Zumpano di In contatto con il mondo spirituale, oppure con l'attore Enzo De Caro, una tavola rotonda dal tema L'Arcangelo Michele, il 2012, il calendario sacro dei Maya, ambiente e spiritualità. Ah, sembra una puntata di Voyager, la classica puntata di Voyager. Più o meno, esatto, con Enzo De Caro. oppure Alison Lee Axin, La vita tra le vite, regressione a vite precedenti. E poi questi stessi relatori faranno vari seminari a pagamento per chi vuole approfondire i loro argomenti. O gratis per chi non vuole. No, ulteriore pagamento per tutti. Okay. Ecco. Va bene, altrimenti velocissimo, il 21 aprile a Firenze, alle aperture alle ore 20 con apericena, I mistici sapori nel Tempio, al costo di soli €5. Fantastico, ci andrò probabilmente. Con Cobra all'oro. Ma chi è? È uno di Damarur, lo capisco, bene, dal fatto che unisce un animale e un vegetale nel nome totemico. Bene, comunque... uno dei principali artisti, sì, da Manuriani, che hanno realizzato le opere scultoree presenti nei templi fin dalla loro fondazione, templi di arte sacra. Bene, il sito è www.damanhurfirenze.it se vi interessa saperne di più. Bene, benissimo, allora noi vi salutiamo, ringraziamo di essere stati con noi, ringraziamo Fede, è stato alla console, e diamo appuntamento a giovedì prossimo. E ecco, vi lasciamo con... con cosa? Con una... dopo di noi c'è Arena Top Again, giustamente, sì. E ciao a tutti. Ciao. Sky.